finisce la lezione. Sei solo chiacchiere distintivo, solo chiacchiere distintivo. Sei solo chiacchiere distintivo, chiacchiere distintivo. E 48 minuti primi le frequenze, quelle di Radio Onda Rossa. Quali sono queste frequenze? 87.9 della banda romana e laziale. E poi in dove? In DAB, dalla provincia di Terni. E anche altrove, Cercate. E poi in ogni dove. Basta avere una connessione che si connette al web. Al World Wide Web. Si digita www.andarossa.info, che è il sito della radio, e poi ascolta la diretta. Appare il player, si dice di clicca sopra. Tanto più che da tante parti del mondo ci arrivano comunicazioni di ascolto della radio anche al di fuori del nostro paese e anche al di fuori dei luoghi dove venite raggiunti dalle frequenze digitali o analogiche. Inoltre in podcast, andando sempre sul sito della radio che ho testé. Enunciato. Ci sono i link ai podcast di tutti i momenti salienti della programmazione in diretta di Radio Onda Rossa, e quindi rassegne stampa, redazionali. Le vostre corrispondenze più importanti e molte trasmissioni della radio. Virtualmente tutte. Mentre bollono in pentola cose in cui noi stessi e altri e altre saranno coinvolti per aprile, e ce ne sono tante altre, a partire dalla presentazione di Scarciando al Forte venerdì 17 gennaio alle ore 19, presentazione di Scarceranda in sala da te al Forte Prenestino. La presentazione sarà insieme a Pirar Curillian in ceruano o qualcosa del genere. C'è chi è brava a pronunciare i nomi delle persone del popolo Mapuche, noi no. Chi è appunto Pilar Curillian, e quello che è? È una studentessa e portavoce dei prigionieri politici mapuche nel carcere di Terrunco. Caso Lauturo e della CAM, la coordinatora Aruco Maliego interverrà sulla condizione dei prigionieri politici mapuche nelle carceri cilene e su cosa significa la resistenza mapuche e il recupero territoriale. Noi appunto vi invitiamo all'ascolto della radio e ricordiamo che la radio non campa d'aria, come si diceva tanto tempo fa. E quindi 61 80 40 01, numero del conto corrente postale da intestare a Cooperativa Culturale Laboratorio 2001, via dei Volci 56 00185, Roma San Lollo. Sul sito andate su Sostieni e troverete tutto scritto meglio per sostenere Radio Onda Rossa. ondarossa@ondarossa.info per le vostre comunicazioni alla radio, 25 o'clock@ondarossa.info per molestare noi sottoscritti. (06) 491 750 il recapito telefonico. Si inizia immediatamente. Anna Calvi. Questo è Michelon. Anna Calvi è padre, nata da padre italiano. Inizia là a suonare con una band londinese che si chiama Ship Hotel. Poi ha maniera di incontrare, di essere notata nelle sue esecuzioni live, Bill Ryder Jones e Brian Eno, e insomma di lì si spalancano le porte. Cosicché ha all'attivo 3 album in studio e diverse colonne sonore, fra cui The Divergent. La serie che la serie di cui il titolo è quello Insurgent del 2015 e poi per 2 stagioni consecutive la 5ª e la 6ª stagione di Peaky Blinders, di cui produce le colonne sonore appunto delle 2 stagioni della serie televisiva. Nella fattispecie abbiamo ascoltato l'apertura della 6ª stagione, che appunto Michelon. Continuiamo perciò con le colonne sonore, ma non prima di aver così letto quella un po' che è la notizia del momento, cioè il raggiungimento di un accordo fra Israele e Hamas per quanto riguarda una tregua nei combattimenti e la conseguente liberazione degli ostaggi. Siamo contenti, siamo ottimisti per questo, ma non siamo, siamo pessimisti per altro, cioè la tregua non può che far bene. Di fronte ai quasi 50.000 morti ufficiali nella striscia, ma di fronte a un Medio Oriente comunque in fiamme e una fascia di Gaza che affronterà una tregua che ci auguriamo sia duratura, ma in condizioni post-atomiche dove la vita difficilmente riuscirà a riprendere, e sotto la pressione di Israele che comunque continua a pretendere e a conquistare territori nel suo progetto di realizzazione della grande Israele. Mentre la propaganda tossica sui media generalisti continua a infliggere le sue vittime negando l'olocausto e il genocidio in corso delle palestinesi e dei palestinesi, mentre appunto la guerra infiamma tutta la regione, quindi a partire dalla Siria, dove continuano e si ampliano gli attacchi contro i territori controllati dall'esperimento democratico del YPG, JPG e dei curdi e di tutte le popolazioni che abitano quei territori. La guerra continua con i bombardamenti nello Yemen e continua in Libano. Libano comunque devastato. E si tratta semplicemente di fragili equilibri. Che non intaccano la risoluzione delle motivazioni per cui il Medio Oriente è in fiamme. Cioè il progetto coloniale israeliano che e le continue ingerenze invece a fini di controllo territoriale delle rotte commerciali da parte di tutte e di controllo geopolitico da parte di tutte le potenze che sono interessate appunto a mettere il cappello in quella zona chiave del mondo intero. Perciò continuiamo, lasciamo Anna Calvi e continuiamo con le colonne sonore. Si tratta di una colonna sonora di un film di cui non troviamo esattamente la data così al volo. ...2010, eccola qua, l'abbiamo trovata invece, Simon Wernen a Disparu. Era un film francese, un giallo, un thriller francese di cui i Sonic Youth si occuparono della colonna sonora e lo fecero in maniera egregia, come forse non hanno saputo fare nemmeno negli album ufficiali. Questa è la terza traccia, che si chiama Le Sang au Piano. La nostra pronuncia francese è assolutamente da codice penale. Radio Onda Rossa, 25 o'clock, Sonic Youth, questa esce un po' meglio, dai.

yourself in the groove that has the whole party moving. You're cruising, you don't know what you're doing, and you don't give up, cause you're so good up your throat. Eat up and keep on riding, cause your timing is on. And that fine when it's on you, it's time to get gone. You pour up in it to yawn till it's finished, come on. Get more twisted and bombed to death, or till it breaks. Start to ponder and wreck. Me, I'm all about the fake, but it takes all kinds, so pay no mind to the text. Wanna hear that song? You know the one with the facts that makes your asses gyrate. Forget to hydrate till they're so fucked up they take off all of their clothes and whip. It on me like my body's made to fit between their lips. You got the ones on the grill or between their hips. But either way, I'ma say, I really don't give a shit. Long as it's somewhere, oh, and they promise not to dare. We can do this like an orgy in the bowels of air. Whatever, Lucy's hell on me and my pussies don't smell. Where's it at? To make me delete it, shake it, can't take it, must break it, break it off there when I said it. Bitch! I want it, I need it to make me delete it, shake it, can't take it, must break it off there when I said it. Bitch! Bitch! I want it, I need it to make me delete it, shake it, can't take it, must break it off there when I said it. Bitch! Bitch! Bitch! Bitch! I want it, I need it to make me delete it. Make it, can't take it, must break it off there when I say this. Responsibility's cool, but there's more things in life. Like getting your dick wrote all fucking nuts. Find the kind of girl that knows how to keep her shit tight. Legs in the air looking like they feel nice. Volcano pussy melts your Peter like ice. And the drugs got you going back for more cause you're locked. I just can't get enough, but that come plus will I rock. It's time to find one and take one, right now. It's time to find one and make one safe. I'm damn, think I just found one about to break one off. Meanwhile, hallucinating crazy getting lost for miles. May have gotten too fucked up cause I forgot how to smile. Gonna have to do this shit Jim Morrison style. Will it work? Probably not, but it's worth a try. First hot one I see with sex in her eyes will be the hot one I need to take home with me tonight. Wish me luck, give me death, and I'll talk to you later. And when I do, let's have my story isn't all about haters. Where's it at? Cause I want it like man. Got the drugs, but need a hot one that'll make me go damn. What's the most banging gut that I ever have smashed? If you got it, push it up on me, cause I'm feeling that ass. Know what I mean? Where's it at? To make me delete it, shake it, can't take it, must break it off there when I said it. Bitch! Bitch! I want it, I need it to make me delete it, shake it, can't take it, must break it off there when I said it. Bitch! Bitch! I want it, I need it to make me delete it, shake it, can't take it, must break it off there when I said it. Bitch! Bitch! Bitch! Bitch! Bitch! I want it, I need it to make me delete it. Shake it, can't take it, must break it off there when I say this. Bitch! I want it, I need it to make me delete it. Shake it, can't take it, must break it off there when I say bitch. 2011 usciva il primo lavoro per Death Grip. S finale. Death Grips. Con questo geniale utilizzo del sample di Interstellar Overdrive, e questa era I Want It, I Need It, Death Headed. Da allora molti album sono passati per molte collezioni, molte raccolte sono passate molte volte con il loro fare provocatorio e assolutamente fuori dagli schemi. Si racconta di contratti firmati con etichette in esclusiva e poi il giorno prima dell'uscita del disco la pubblicazione invece sui canali. Dove viene archiviata la musica del disco per intero e senza alcuna restrizione, copertine provocatorie. Death Grip stesso è diciamo un atteggiamento provocatorio, cioè una sorta di sindrome. Diciamo della masturbazione maschile, ecco, mettiamola così. Della masturbazione maschile acuta. Assolutamente politicamente scorretti da tutti i punti di vista. E quindi stiamo parlando di MC Ride, questo nero enorme che si agita comunque nelle tenebre del palco. Le loro esibizioni sono sempre molto oscure. Alla batteria Zach Hill, Andy Morin al sintetizzatore e poi le varie collaborazioni nei differenti lavori. Science è invece una collaborazione che si è prodotta diversi anni or sono in Montreal. Roger T. Cray dei Fly Panam, Alexander Saint-Onge del Shala B. Effect, Ferin Morel dei Fly Panam, Sophie Trudeau dei Good Beats You, Black Emperor e Silver Mountain Zion e Stefan D'Oliveira. Che si producono in questo lavoro sperimentale mai abbastanza ascoltato. Ancora un titolo francese, tanto per esercitare la nostra pronuncia da codice penale, dicevamo prima, per Nostus, tra l'altro è scritto anche piccolissimo, allora dicevamo, cerchiamo di ricomporci. Pornos però scritto con tre S, tus letreus de vos cranel, dovrebbe essere per noi tutti tutti i buchi del vostro cranio, insomma qualcosa del genere. E tanto per non così infilare il coltello nella piaga, non diciamo il titolo della quarta traccia che stiamo ascoltando sotto la nostra voce, che però comunque riprende il titolo dell'intero progetto, che è quello che vi ho malamente raccontato ora. Quindi da capo, e Science, questi 11 minuti ve li lasciamo ascoltare tutti. Dai, Radio Onda Rossa, 25 o'clock. We'll be right back. 23 e 41 minuti primi, le frequenze di Radio Onda Rossa 87.9 della banda romana laziale e in DAB da Terni e anche d'altrove. Il recapito telefonico di Radio Onda Rossa. Ci siamo ascoltati in Miet. Abbiamo quasi imparato a pronunciarlo questo tedesco, eh? Noi che non andiamo oltre le pronunce della Ciociaria e de Terni, de Rieti e forse pure de Viterbo. Siamo riusciti a dire Miet. E questa era l'ottava traccia. Di questo lavoro che si chiama Empor. The Goes That Go Away. Loca che se ne andava via e plasticamente potevate immaginare lo sculettamento del Loca che se ne andava sotto le note di The Mute. Parola che significa in tedesco semplicemente banda. E difatti sono una banda di fiati e percussioni, numerosissimi componenti. Siccome però per leggervi i componenti devo togliere la bustina dal disco ed è opera, togliere è facile ma rimetterla è difficilissimo, di solito la bustina si rompe, cercheremo di farlo una sera, di raccontarvi e di dirvi tutti i nomi dei componenti e delle componenti di questa banda, ma stasera. Invece stasera vi diciamo, non si può più dire niente, non si può più dire niente, è il nome della nuova rubrica di Radio Onda Rossa. Ciclo di trasmissioni sul Walk and Cancer Culture. Seconda puntata giovedì 16 gennaio, quindi domani dalle ore 18:15, Radio Onda Rossa 87.9. Della modulazione di frequenza. Vabbè, insomma, dai, l'abbiamo detto il numero di telefono, insomma, esercitatelo. Quarantaquattro minuti primi, Onda Rossa, noi andiamo avanti. Ma restiamo in Germania, la Germania del 2000 all'incirca, quando usciva questa raccolta che vi abbiamo un po' ricordato la scorsa settimana di cover dei Floyd. E quindi dopo At Science 2004, Mute 2024, anno 2000 Flying Circus. Thank you. Ci vuole più luce, let there be more light. Yeah. con questo finale ravelliano si concludono Flying Circus e noi andiamo a far seguito a quella che è il suggerimento del fantasma di un paio di settimane fa, no, della scorsa settimana. Vedian, che è un oscuro produttore che raccoglie tracce da tutto il mondo per quanto riguarda la psichedelia, il doom, il metal, lo stoner, doom metal, lo stoner. E poi appunto li raccoglie per territori, per zone del mondo in cui vengono prodotti, Trip to Italy. La collezione, ce n'è una del 2001 su Bandcamp, composta da una ventina di tracce per lo più. Questa volta invece ne è stata uscita proprio di recente, nel 2025, il 3 gennaio se non andiamo errati. Questa Art is never finished, only abandoned. E quindi più che altro crediamo che sia gli estensori di questa playlist siano rimasti stremati dal numero di band da dover citare, quindi 182. Di questa raccolta andiamo ad ascoltare la nona, la decima e l'undicesima traccia di seguito. Andando a coprire un po' tutto il suolo nazionale, il Carcagno vengono da Reggio Calabria, The Hunter è la nona traccia, poi Black Rainbows da Roma, ben conosciuti qui da queste frequenze, Fire in the Sky, e poi Giobbia da Milano, Pilot's Wand, Radio Onda Rossa, 25 o'clock, questa è Trip to Italy, a 25 o'clock, dai. 102 tracce di stoner, psichedelia, doom, space rock, made in Italy. Se ci volete fare una capatina, Bandcamp, Trip to Italy. gennaio 2025. Noi invece ce ne andiamo via dallo stivale, dalla penisola, e andiamo nelle isole britanniche. Però Uncle Acid and Dead Bits, mentre scrocchia il mixer. Dicevamo Uncle Acid e The Back Bricks. Ultimo lavoro per loro, questo 2024, che si chiama Nell'ora Blu, e vabbè, ne abbiamo già parlato. Si tratta di una immaginifica colonna sonora o un immaginifico film del poliziottesco all'italiana, abbastanza truce, come era, come si conveniva all'epoca. Le voci erano, che sono nel disco, sono quelle autentiche di Franco Nera, di Pitch Panic e Luca Merenda. Noi abbiamo preparato questa volta sul lettore di CD la 13ª traccia, Solo la morte ti ammanetta, e quindi Radio Onda Rossa, 25 o'clock, Uncle Acid and the Dead Bits. Dai. said you'll grow out of it in no time. I won't be in fine, won't be in fine. I won't be in fine, won't be in fine. We've a family call scared. Dicono King Hanna, all been fine. Ascoltata dopo la breve traccia So Much Water, So Close to Drone. Un disco veramente interessante, con una voce altrettanto interessante. Soon you'll have a bigger baby in the family than yourself. I can't explain, you will pain, pain, pain, pain. La voce è quella, per l'esattezza, di Anna Merrick, che è un po' la leader della formazione, poi composta da Craig Whittle, Ted White e Jake Lipek alle batterie. Più o meno questa la formazione base. Poi nel disco ci sono varie special guest. Lavoro del 2022 che si chiama I'm Not Sorry, I Was Just Being Me. E veniamo all'ultimo lavoro per quanto riguarda Melvins, il penultimo forse, se non andiamo errati. Ci informiamo mentre mandiamo la traccia. Allergic to Food, lavoro del 2022, Tarantula Heart, per quanto riguarda i Melvins, e non solo non ci hanno deluso ancora una volta, quindi mantenendo sempre un alto livello, ma forse questa volta ci hanno anche sorpreso Melvins. Onda Rossa 25 o'clock. We'll be right back. ground, keeping places soft and round. I won't be so unhappy now. I'll leave this town, leave it now. I Segal, White Fans. Avevamo affrontato già il discorso la scorsa settimana, lo approfondiamo questa volta. Un disco del 2020, se non andiamo errati. No non cercatelo sulla copertina perché non c'è la data, però mi sembra che era del 2020. Da qui abbiamo ascoltato tre tracce consecutive, ma senza soluzione di continuità. Please, Don't Leave the Town, Room Connector e Body Beaver a 36 minuti dopo la mezzanotte. Un disco eclatante che pare uscito dai pieni anni 60 e invece... ve lo dico, fra poco di che anno è? Di un paio d'anni invece è l'uscita di questo lavoro, Mana di Lily Refrain. L'abbiamo sentita qua con Elettrodo un po' di settimane fa. Speriamo di aver modo di intercettarla sempre per Radio Onda Rossa e per 25 O'Clock o per Radio Onda Rossa e basta. Ci andiamo ad ascoltare da Mana la seconda traccia che si chiama Kokyu. Lily Refrain. maybe so. Magnifica il refrain e magnifico il disco. Del 2023 per quanto riguarda Trap King Murphys. Prodotto da Nora Guthrie. Di Woody Guthrie, nonché presidente della The Woody Guthrie Foundation. E quindi produttore esecutivo di questo lavoro. This Machine Still Keep Fascist. E sarà una roba che sarà ricorrente da queste parti, ve lo diciamo. Ma vi diciamo anche che la programmazione in diretta di Radio Onda Rossa finisce con queste note. Infatti dopo la sigla noi lasceremo l'iniziativa alla compagna automatica Sonata. Con le sue bizzarre selezioni musicali assortite dalle repliche delle varie trasmissioni che sono andate in onda e pubblicate nei giorni e nelle ore precedenti. Ricordiamo la seconda puntata, proprio domani, Non si può più dire niente, ciclo di trasmissioni sul walk e sulla cancel culture, giovedì 16 gennaio dalle ore 18:15 a Radio Onda Rossa. Vi ricordiamo altresì la presentazione di Scarceranda 17 gennaio alle ore 19, presentazione di Scarceranda in sala da te al Forte Prenestino. La presentazione sarà insieme a Pilar Curiglian e Inciuano, studentessa e portavoce dei prigionieri politici Mapuche nel carcere di Temuco, Casola Turo e della CAM. La coordinatora Auraco Malienco interverrà sulla condizione dei prigionieri politici Mapuche nelle carceri cilene e su cosa significa la resistenza Mapuche e il recupero territoriale. E vi ricordiamo ancora che è uscita la Scarceranda 2025, si trova in radio e nei principali punti di distribuzione. Andate sul sito, andate a scoprire dove potete trovare la Scarceranda, oltre che ovviamente a Via dei Volsci 56 qua da noi a Radio Onda Rossa. Potete anche contattarci per richiedere sulla mail ondarossa@ondarossa.info o altrove, insomma, potete contattarci e richiedere la Scarceranda, avremo modo di inviarvela via posta. Ricordiamo che la formula dell'acquisto di Scarceranda è sempre quella da quando la Scarceranda, ormai tanti anni fa, ha avuto luce come progetto. Per ogni carcere acquistata una va, per ogni Scarceranda acquistata una va in carcere. E quindi vi chiediamo di farci sapere a chi recapitare la Scarceranda da mandare dentro. I'll never get drunk anymore. Le programmazioni della radio riprenderanno, appunto, dicevamo, alle 8 di giovedì, cioè di oggi, con la lettura delle prime pagine dei giornali, la rassegna stampa cittadina. I redazionali della mattinata andranno avanti fino alle 12.30 circa, quando ci sarà la replica di Impatto. Dalle 12.45 alle 14 circa, dalle 14 alle 15 tutta scena cinema, trasmissione sul cinema di Radio Onda Rossa. 15.30-16.30 la replica di Disorder, e poi a seguire La Schiena del Soul e poi la trasmissione sui libri di Radio Onda Rossa, Tabula Rasa, dalle 20 alle 21.30. Poi c'è Il Buon Fagiolino, In Nottibus Panis, fino alle 22.45 circa, e poi dalle 23 in là I Cuginetti d'Apostasia, ma non si sa mai quando cominciano e non si sa mai quando finiscono. Dato che parlavamo di carcere e di scarceranda, non possiamo che mandare il nostro più caloroso abbraccio a tutte e tutti coloro che ci ascoltano. In condizioni di libertà da libertà personale, carcere, latitanza, clandestinità, arresti domiciliari, centri di detenzione per migranti e decreti amministrativi vari che ci impediscono di vivere normalmente, anche se sto vivere normalmente non è che si è capito bene e non abbiamo capito bene cosa è la normalità. Sicuramente ce n'è una che ci viene imposta e non ci piace per niente e vorremmo fare veramente altro. Detto ciò, bella a tutte e a tutte, ci risentiamo mercoledì prossimo, chissà se avremo novità, anzi ce le abbiamo già, novità. Nello zainetto. Vediamo quando li tireremo fuori, dai. Dato che siamo andati lunghissimi, ve la facciamo finire. All You Phonies, Drappi Murphys, e poi ce ne andiamo sotto la luna comunista, dai. dreams. I'll share our dreams under a communist moon.